Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata e un buon weekend, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, da parte mia, Giampaolo Musumeci, ma anche da tutta la redazione di Nessun Luogo è Lontano. In questo appuntamento del weekend vi riproponiamo i temi più caldi, più interessanti che abbiamo trattato durante la settimana. Ebbene, lunedì abbiamo parlato della pena di morte, in particolare in Cina e negli Stati Uniti, e poi c'era anche l'Arabia Saudita. Parliamo proprio di questo tema e partiamo proprio dalla Cina. La voce che avete sentito è quella della presentatrice Ding Yu, presentava un programma in Cina che si chiamava Intervista prima dell'esecuzione. Andava in onda in un canale della provincia di Henan. È una serie che è andata in onda dal 2006 al 2012, spesso interviste realizzate poco prima, poche ore prima dell'esecuzione della condanna. Lo scopo era la deterrenza, poi dopo essere andata in onda 6 anni la serie è stata sospesa. Questo esperimento televisivo è particolarmente intrigante, particolarmente interessante nel momento in cui ci accingiamo a capire l'utilità della pena di morte. Apriamo il buco nero che si chiama Cina, dico buco nero perché molto spesso i dati, le statistiche proprio non escono. Ci soccorre in questa analisi quello che si riesce a fare Simone Pieranni della redazione Esteri del Manifesto, fondatore di China Files. Simone, buona giornata e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora Simone, qual è il problema della Cina? Perché non si sa esattamente quanti condanni a morte avvengano nel paese? Allora, perché semplicemente è un segreto di Stato e quindi, come tante altre cose in Cina, lo Stato stesso non fornisce sostanzialmente numeri ufficiali. Ci sono delle stime che vengono fatte dalle associazioni che avete ricordato voi poco fa, Amnesty, Human Rights Watch, eccetera. Si parla presumibilmente di migliaia, presumibilmente all'anno, sicuramente molte centinaia. Sì. E in realtà ci sono due dati, a mio avviso, particolarmente interessanti. Il primo ha a che vedere proprio con una progressione, comunque, per certi versi, che c'è stata verso, diciamo, non dico l'abolizione, ma verso una diminuzione comunque dei reati e delle casi attraverso i quali viene applicata la pena di morte. Sì. Probabilmente anche a causa proprio delle campagne internazionali che sono state fatte. Ad esempio nel 2007 la Corte Suprema è stato stabilito che debba rivedere le sentenze che prevedono la pena di morte. Nel 2011 13 casi sono stati eliminati tra quelli che prevedono la pena di morte. Nel 2015 ne sono stati tolti altri 9, oggi sono 46. Sì. In teoria, secondo diciamo quello che noi sappiamo, la pena di morte in Cina viene per lo più applicata comunque per reati specifici, come ad esempio omicidio, stupro, reati di droga, eccetera. Però, come ben sappiamo, nell'ultimo periodo la campagna anticorruzione di Xi Jinping ha richiesto sostanzialmente anche un aggiornamento, diciamo, del codice penale per certi versi, proprio per i reati di corruzione. Nell'aprile dell'anno scorso è stato stabilito che la pena di morte per casi di corruzione avviene solo nel momento in cui il caso di corruzione, diciamo, prevede più di $460,000 circa. Quindi esiste proprio un ammontare economico che dice questa corruzione vale la pena di morte. Esatto, e questa è una precisazione molto importante, perché teniamo presente che fino al 2015 veniva indicata una somma molto ingente di denaro tra le cause di pena di morte per corruzione. Il che ovviamente era una cosa che lasciava ampio margine di interpretazione, diciamo, no? Assolutamente. In più teniamo presente che questi che potremmo definire miglioramenti, ad esempio la stessa Corte Suprema si è espressa affinché vengano diminuite le sentenze di pena di morte, convertendo molte condanne a morte in ergastolo e richiedendo che ad esempio per i corrotti l'ergastolo non possa prevedere degli sconti di pena. Sì. In realtà naturalmente il problema per certi versi in questo caso della Cina è più generale, cioè il sistema giudiziario, che non è assolutamente quello che potremmo definire di uno stato di diritto, perché ancora oggi in Cina si può essere sequestrati, arrestati senza la presenza di un avvocato, interrogati senza la presenza di un avvocato, e soprattutto a livello processuale c'è il piccolo particolare che l'accusa e il giudice coincidono, quindi necessariamente, diciamo, non è una situazione che ha diritti di stato di diritto garantisce. Però va sicuramente, appunto, specificato che negli ultimi tempi lo stesso, anche associazioni italiane come ad esempio Nessuno Tocchi Caino, hanno sottolineato questa tendenza per certi versi della Cina a provare a regolamentare e soprattutto comunque a diminuire i casi di pena di morte attraverso naturalmente l'ergastolo a vita. Sì. Simone, stai con me perché al 349-238-6666, come immagini, insomma, sono parecchi messaggi, è un tema delicato, sensibile, che scatena anche reazioni a volte forti, a volte di pancia, però c'è chi riflette, c'è chi cita ad esempio Antoine Leiris, che è un vedovo di una delle vittime del Bataclan, attentato di Parigi, che ha scritto non avrete il mio odio, uccidere persone che hanno ucciso, perché uccidere è sbagliato. Io ricordo, ma è un'esperienza personalissima che ho vissuto a Molenbeek poche settimane fa, ricordo una delle vittime, anche lui vedovo, che diceva bombardare non serve a nulla, anzi no, bombardare serve, bombardare con l'amore, che può sembrare retorico, forse patetico, però detto da una persona che ha perso i propri cari e che potrebbe invece additare i terroristi, no? E invocare la pena di morte, insomma, suona particolarmente toccante, particolarmente significativo. Grazie mille Simone Pieranni, redazione Esteri Manifesto, fondatore China Files, per aver reso quel buco nero della Cina un po' meno nero. Buona giornata, buon lavoro Simone. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Arrivarono con il vento di carnevale Vian e sua figlia Anouk, che a 6 anni il mondo aveva ancora una luce speciale. Audiogrammi Reloaded, una storia come non l'avete mai ascoltata, di Paolo Corleoni e Laura Faggin. Sabato alle 15 e domenica alle 23 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, ancora un buon weekend da parte mia, da parte della redazione di Nessun Luogo è Lontano. Tra i temi che abbiamo selezionato, l'avete sentito, c'era lo scottante tema della pena di morte. Vi porto negli Stati Uniti innanzitutto, sentirete la voce di Robert Dunham, che è uno studioso, un attivista che ci racconta meglio la disciplina anche giuridica in 30 stati degli Stati Uniti, e poi sentirete la voce di Elisabetta Zamparutti di Nessuno Tocchi Caino. Ascoltiamo. E tra i tanti artisti che hanno preso posizione, e lo sentite dalle sue rappate, vi era Christopher Lee Rios, morto a 29 anni nel 2000, era conosciuto come Big Pun, che è la versione abbreviata di Big Punisher. Il suo primo album era stato proprio Capital Punishment. Allora, la situazione negli Stati Uniti è particolarmente interessante perché da tutti viene celebrata come una grande democrazia, però su 30 stati degli Stati Uniti d'America ancora viene applicata la pena capitale. Questo è il prodotto di una legislazione che non è esattamente omogenea. In questi 30 stati la pena di morte è legale ed è prevista dal governo federale e dall'esercito. Però, per disciplinare l'esercizio, ognuno di questi soggetti ha emanato leggi diverse. E in buona sostanza vi sono due processi concomitanti. Sentite come fotografa la situazione, soprattutto dal punto di vista giuridico, Robert Dunham, che è il direttore del Death Penalty Information Center. Sentite. Hanno molte caratteristiche simili. La prima parte del processo è la stessa per entrambe le tipologie di casi e serve per decidere se l'imputato è colpevole o innocente. Poi, per i crimini che prevedono la pena di morte, si passa a un altro processo, come abbiamo già detto, in cui accusa e difesa portano entrambe l'attenzione dei giudici i motivi per cui l'imputato dovrebbe o meno essere punito con la morte. In un processo ben svolto, la difesa analizza in modo approfondito l'intera vita e il background dell'accusato per capire se ci sono dei fattori che potrebbero contribuire a renderlo in un certo senso meno responsabile del crimine commesso: povertà, abusi, esposizione cronica a traumi, negligenza. Non si tratta di giustificazioni, ma piuttosto di motivi per cui l'imputato potrebbe non meritare la pena di morte. Per esempio, diversi neuropsicologi hanno riscontrato che molti problemi nello sviluppo del cervello si determinano in seguito a traumi e all'esposizione continuata alla violenza. Condurre un'analisi del genere è molto costoso. I giudici vengono informati su ogni dettaglio della vita dell'imputato. In questo modo si spera che capiscano di avere a che fare con esseri umani che sono stati esposti a realtà problematiche e che per questo meritano di vivere. Questo è uno dei motivi per cui è capitato che venisse concesso l'ergastolo anche ai colpevoli di omicidi davvero efferati. E Ma quanto costa la pena di morte a livello sociale ed economico per la società che decide di introdurla? Sentite ancora Robert Dunham. There is no good data. Non esistono dati precisi, ma alcuni studi hanno dimostrato che la pena di morte costa di più delle altre pene alternative, come per esempio l'ergastolo. Questo soprattutto perché le procedure giudiziarie per i casi in cui si prevede la pena di morte sono più lunghe e costose. Spesso questi casi rimangono in esame presso la Corte per molto tempo. Di recente, il professore Ernest Goss della Creighton University in Nebraska ha condotto una ricerca analizzando i costi della pena di morte in quello Stato e li ha confrontati con i risultati di altri studi americani sul tema. Quello che è emerso è che la pena capitale costa agli stati in media 23,2 milioni di dollari all'anno. In Nebraska la cifra ammonta a 14 milioni di dollari. Quindi se moltiplichiamo il dato per i 30 stati che in America prevedono la pena capitale, si arriva a una spesa annuale di circa 600 milioni di dollari. $349-238-6666 per i commenti su questa lunga pagina di approfondimento di Nessun Luogo è Lontano, in cui facciamo una ricognizione nei paesi nel mondo in cui ancora esiste la pena di morte e ci chiediamo quanto costa sia economicamente sia socialmente. Complice un rapporto della Lega Nessuno Tocchi Caino, che è stato rilasciato alcuni giorni fa, in realtà i primi di agosto. Insomma, mettiamo il grandangolo e cerchiamo di capire quanto è socialmente utile la pena di morte. Elisabetta Zamparutti al 349-238-6666, ci sono alcuni ascoltatori che dicono, alla fine, come Massimo da Torino, se si è toccati personalmente da qualche crimine efferato non si è disposti a perdonare. Questo forse è il punto più nevralgico e più cruciale, no? Sì, è chiaro che ogni individuo manifesta reazioni, sentimenti di un segno piuttosto che di un altro. Il fatto è che cosa deve fare uno Stato che deve governare una società assicurandone la sicurezza anche in casi di reati gravi. E allora su questo la riflessione va posta, se la pena di morte sia effettivamente o meno lo strumento per raggiungere questo risultato. Noi sappiamo, ma anche per studi comprovati che su questo sono stati condotti, che la pena di morte non è assolutamente un deterrente. In particolare dagli Stati Uniti ci sono le ricerche più dettagliate, più precise, dalle quali emerge che proprio negli stati dove si pratica la pena di morte il tasso di criminalità è tra i maggiori dell'intera federazione americana, mentre dove è abolita o comunque sospesa c'è un calo, una riduzione del tasso di criminalità. Ma poi rimane quello che dicevo all'inizio, cioè la concezione, no, di una giustizia se retributiva o invece non vendicativa. Elisabetta Zamparutti, però credo che il punto fondamentale sia quello che hai toccato tu adesso, ma quello che tocca e ha toccato per noi anche Robert Dunham, a cui abbiamo chiesto la stessa cosa che dicevi tu. Negli Stati Uniti dove c'è la pena di morte ci sono livelli minori di criminalità? Sentite. No, e questa è una delle altre cose interessanti sulla pena di morte. Molte persone pensano che funzioni come un efficace deterrente contro la criminalità. In realtà si tratta di un grave fraintendimento sulla natura degli omicidi, che quasi mai sono premeditati. I dati mostrano che non ci sono relazioni tra il numero di omicidi e la pena di morte. Una ricerca del governo ha analizzato tutti gli studi condotti negli Stati Uniti sul tema e ha concluso che non esiste alcuna evidenza scientifica dell'effetto deterrente della pena di morte rispetto al numero di assassini commessi. Questi risultati sono stati confermati anche da uno studio del Brennan Center for Justice dell'Università di New York. Sul nostro sito monitoriamo la frequenza di omicidi negli Stati Uniti dagli scorsi 20 anni ad oggi e la mettiamo in relazione con il numero di sentenze capitali. Quello che emerge è che la presenza della pena di morte nell'ordinamento di alcuni stati non influenza in alcun modo l'aumento o la diminuzione degli omicidi. Infine, se la pena capitale fosse un deterrente valido, ci si aspetterebbe un numero inferiore di crimini negli stati che la prevedono. In realtà è il contrario. Negli stati in cui essa è legale, si assiste a un maggior numero di omicidi. Una possibile spiegazione è che, negli stati in cui è più diffusa una cultura della violenza, sono più alte le probabilità di commettere omicidi e di adottare la pena di morte. There's a pale horse coming, and I'm gonna ride it. I'll rise in the morning, my fate decided. E fra gli artisti che hanno preso posizione con una ferma condanna rispetto alla pena di morte, lo sentite, c'è anche Bruce Springsteen. Ma torniamo ai dati e alla parte più solidamente scientifica, perché credo che sia quella più intrigante. Robert Hannam sostanzialmente diceva: attenzione, perché la pena di morte è una forma violenta e quindi alimenta la violenza in una società. Allora gli abbiamo chiesto, sta sostenendo forse che la pena di morte è capace di dare forma alla società e renderla ancora più violenta? Sentite cosa dice ancora Hannam. Penso che la pena di morte sia un'espressione del contesto sociale. La pena di morte è prima di tutto una dichiarazione simbolica e quasi un indice di un maggiore livello di ostilità negli stati che la praticano rispetto agli stati nei quali è stata abrogata. In generale, gli stati con bassi tassi di omicidi non applicano la pena di morte. Inoltre, negli Stati Uniti, la pena di morte resiste principalmente negli stati meridionali. È contemplata formalmente in 30 stati, ma di fatto viene applicata principalmente nel profondo Sud, e il profondo Sud deve vedersela con l'eredità dello schiavismo, la memoria dei linciaggi e una lunga tradizione di uso della legge come strumento per preservare l'ordine sociale, un ordine sociale che coincideva con la supremazia dei bianchi. Quindi stiamo parlando di stati con una lunga tradizione di discriminazione razziale e di applicazione iniqua della legge. Ecco dov'è che viene praticata la pena di morte. (349) 238-6666 per commentare il delicato, lo dicevo all'inizio di questa trasmissione, tema di quest'oggi, una lunga pagina di Nessun Luogo dedicata ai costi economici e sociali e alla convenienza, e scusate il termine forse un po' cinico, della pena di morte, fermo restando che il trend nel mondo è della progressiva abolizione, benché nell'ultimo anno e mezzo vi sia stato un incremento del ricorso alla pena di morte da parte di quei paesi che tuttora la prevedono nel loro ordinamento, ma, come ci spiegava Elisabetta Zamparutti di Nessuno Tocchi Caino, questo è dovuto fondamentalmente da un lato a due grosse guerre, due grossi fronti, quello della lotta al terrorismo, l'altro della lotta al narcotraffico. A Robert Hannam abbiamo chiesto, studioso, esperto di pena di morte, abbiamo chiesto come viene percepita la pena di morte dai cittadini. I politici la impiegano come parte del programma elettorale o per essere rieletti? Alla fine, in buona sostanza, è una leva elettorale anche questa, sentite. Fino a qualche tempo fa, il candidato che in una competizione elettorale si opponeva apertamente alla pena di morte, poi veniva quasi certamente sconfitto. Tra gli anni 80 e i primi anni 90, il sostegno pubblico alla pena di morte si aggirava intorno all'80%. Questo secondo il Gallup Poll, che negli Stati Uniti è il principale sistema di rilevamento dell'opinione pubblica. Ma oggi, secondo i risultati più recenti del Gallup Poll, il sostegno pubblico alla pena di morte è sceso a quota 61%, mentre secondo altri sondaggi sarebbe addirittura arrivato a quota 55-56%. Inoltre, l'aspetto che trovo più interessante è che se in questi sondaggi si pongono domande più accurate, fornendo al pubblico una scelta più ampia, chiedendo ad esempio quale pensa che sia la pena più appropriata per un omicidio, la pena di morte o l'ergastolo senza possibilità di sconti, salta fuori che la maggioranza degli americani preferirebbe abolire la pena di morte per rimpiazzarla con una forma di reclusione a vita o comunque di lunga durata. Quindi, se possiamo dire che negli anni 80 e nei primi 90 il candidato contro la pena di morte usciva quasi certamente sconfitto dalle elezioni, oggi non è più così. Ci sono alcuni posti negli Stati Uniti dove i candidati stanno provando a usare la pena di morte per distogliere l'attenzione da altri problemi. La governatrice del Nuovo Messico, Susana Martinez, ad esempio, sta cercando di reintrodurre la pena di morte, ma i suoi avversari politici sostengono che lo stia facendo perché l'economia dello Stato è in difficoltà e la gestione Martinez della situazione sta riscontrando uno scarso gradimento da parte degli elettori. Sembra che la questione pena di morte, inoltre, non avrà grandi effetti sulle elezioni nel Nuovo Messico, ma questo rimane ancora da vedere. In generale, negli Stati

secondo più di $3,000 nel mondo sono spesi in pornografia. Ogni secondo ci sono 30,000 visualizzazioni porno nel mondo. Ogni 39 minuti l'industria statunitense, per dirne una, carica un nuovo video online. Oggi a Nessun Luogo Lontano vi raccontiamo il potere del porno. L'essere umano, raccontava in un bel pezzo di Atlantic, da sempre disegna immagini di sesso, ma è del 1600 circa che quelle immagini iniziano a rientrare in questo ampio termine, ampio dal punto di vista semantico, che usiamo ormai da tempo, sì, il termine è pornografia. Da un lato, dal 1600 in poi, si iniziano a rompere certi tabù, dall'altro si va a ricercare proprio l'eccitazione. Da lì a pensare di fare i soldi su questi due elementi il passo fu breve e poi arrivò l'industria del porno. Con anche alcune sue storture, alcune sue dinamiche, vi sono stati casi di sfruttamento del lavoro, c'è il caso della pirateria, ci sono impatti sociali fondamentali da analizzare. Oggi vi proponiamo un viaggio proprio in questa industria attraverso quattro continenti. Però prima di iniziare questo viaggio dobbiamo, come dire, rivelarvi che abbiamo avuto serie difficoltà nel trovare i dati. Mancano dati affidabili, soprattutto dal punto di vista economico, perché un bel pezzo di questa industria, lo immaginate, lavora sotto traccia e spesso ha contributi amatoriali, per cui è molto molto difficile stimare quanto valga l'industria pornografica nel mondo. Secondo una stima, e forse lì è attendibile perché è un operatore del settore, Fabian Thielmann è un imprenditore che gestisce vari siti per adulti e lo soprannominano il re del porno. Questa intervista è stata riportata all'Economist, ebbene il prestigioso settimanale britannico riportava questo valore: il porno a livello mondiale varrebbe tra i 40 e i 50 miliardi di dollari, ma sarebbe crollato del 75% negli ultimi 15 anni. La causa? Internet sempre più forte, produzione amatoriali sempre più forti. Quali sono i lati oscuri del porno? Quanto le società hanno bisogno della produzione di contenuti pornografici? E come, nelle diverse aree del mondo, questa industria vive, sopravvive e muore? Partiamo dal Nord America. Lo facciamo grazie alla dottoressa Giovanna Maina, che è ricercatrice presso l'Università di Sunderland, UK, siamo nel Regno Unito, è una senior research. Al momento sta lavorando a un progetto di ricerca che si intitola Degradation of Empowerment, Challenging Stereotypes About Women in Porn. Quindi fondamentalmente la dottoressa Maina sta studiando quanto gli stereotipi di genere influiscono sullo stato delle donne, sulla condizione delle donne nella narrazione del porno. Partiamo dal Nord America, perché lì vi sono grandi capitali di produzione di questa industria. Quali sono le dinamiche più importanti che possiamo individuare nell'industria del porno in Nord America? Sentite Giovanna Maina. Allora, l'industria del porno nordamericana innanzitutto è un'industria molto complessa che incorpora tantissimi generi e sottogeneri, tantissimi diversi modi di produzione. Per quanto riguarda le dinamiche, è chiaro che la principale dinamica in questo momento è la dinamica di reazione al web 2.0, cioè alle nuove forme di distribuzione, produzione, fruizione pornografica che sono legate alla rete. Quindi la principale dinamica adesso è che un'intera industria si deve in qualche modo riconfigurare per far fronte a problemi come la pirateria, sì, e soprattutto come i tube gratuiti come Pornhub, sì, o YouPorn, che in qualche modo sono considerati, insomma, almeno dagli esponenti dell'industria più canonica, sono considerati come una specie di nemico, no? Nel senso che questo tipo di fruizione ha, secondo alcuni analisti, secondo i protagonisti stessi dell'industria, sì, ha in qualche modo abbassato per esempio le vendite dei DVD, sì, eccetera. Poi in realtà c'è l'industria anche dietro ai pornotube, nel senso che i tube pornografici sono per la maggior parte di proprietà di grandissime corporation, sì, che sono proprietari anche degli studios pornografici. Quindi è una situazione molto complessa, però sì, è chiaro che in questo momento c'è un'industria che si sta cercando di riconfigurare in vari modi, sia creando per esempio delle corporazioni che uniscono diversi studios, che uniscono diversi distributori e produttori per fare fronte proprio a livello economico, sì, a questa situazione, sia si riconfigura anche nella creazione di diversi tipi di prodotti, nello sfruttamento di nuove piattaforme. Questa è una delle prime dinamiche, sì, fondamentali, insomma, sì, che sono all'opera, che, sì, non è tanto una dinamica legata ai contenuti o alle forme, ma proprio alla sopravvivenza dell'industria stessa, all'evoluzione. Il potere del porno in questa ultima puntata di Nessun Luogo è Lontano può suonare come una pruriginosa provocazione, non lo è affatto, perché è un'industria molto potente, con fatturati elevati, che coinvolge tutti i continenti, tutti i paesi, perché come scopriremo in alcuni paesi è illegale, ma poi c'è il contrabbando di materiale pornografico, che ha impatti sociali, che realizza delle fotografie sociali perché ci spiega meglio certe dinamiche sociali e addirittura, pensate, può avere leve geopolitiche. Restiamo negli Stati Uniti con Giovanna Maina, che è ricercatrice all'Università di Sunderland nel Regno Unito. Quali sono le dinamiche della censura e della regolamentazione rispetto all'industria pornografica nel Nord America? Sentite. Sono altre dinamiche che sono legate più per esempio al controllo governativo, al tentativo del governo statunitense di in qualche modo regolare la pornografia senza ricorrere alla censura. Ci sono altri modi che sono per esempio legati alle condizioni sanitarie, all'obbligo di uso del preservativo, sì. che è questa famosa Measure B che è stato, insomma, si sta tentando, insomma, di far applicare in California. Quindi c'è un tentativo di, anche da parte del governo, di appunto regolare la pornografia utilizzando questioni come il controllo sanitario, sì. Diciamo, del lavoro, sì. Che però sono questioni anche lì piuttosto controverse, nel senso che poi dall'industria stessa questa cosa non è vista bene per una serie di motivi molto legittimi, cioè perché appunto l'uso del preservativo crea problemi in certi tipi di scene, insomma, quindi è una cosa che viene vista appunto come un tentativo di regolare. Iniziamo a marcare alcuni confini. Quali sono le differenze delle produzioni pornografiche tra America e Europa? Sentite. Una delle tendenze produttive emergenti del porno americano contemporaneo, per esempio, è la creazione di materiali, intere case di produzione oppure filoni interamente dedicati al pubblico femminile. Quindi questa cosa chiaramente ci dice molto del cambiamento, di un cambiamento che noi possiamo solo supporre perché non esistono dati come dire, affidabili su questo, però di un cambiamento per esempio nella fruizione del porno e in come il porno stia cominciando a diventare un discorso sociale un pochino più legittimo, un pochino più tollerato, almeno in certi contesti socioculturali. Quindi è chiaro che se io guardo la produzione americana e vedo che cominciano ad aprirsi serie di film o case di produzione dedicate alle donne, oppure delle famose case di produzione che hanno proprio costruito la loro fama sul target esclusivamente maschile, cominciano a rilasciare comunicati stampa o articoli o letture delle proprie opere in questa chiave, cioè a dire anche noi supportiamo, no, il porno per donne, eccetera, è chiaro che questo mi dice qualcosa della società, cioè mi dice che le donne hanno più accesso e mi dice che le donne guardano il porno, anche se non ho dati per dimostrarlo, però certo. È chiaro che un trend produttivo mi dice delle cose, quindi questo sicuramente è una delle, come dire, delle dinamiche sociali che vengono registrate. Sì. E che registrano, cioè nel senso che è un cane che si morde la coda, no? Cioè da una parte il porno registra una dinamica sociale, ma in certo qual modo la produce anche, non so come dire. Allora, come avete sentito dalla voce della dottoressa Maina, mancano spesso i dati, perché in effetti il territorio che stiamo esplorando quest'oggi è Nessun Luogo Lontano, benché insomma da molti sia conosciuto, se non direttamente magari indirettamente, è molto difficile che venga analizzato con criteri scientifici, con criteri rigorosi. Eppure esiste un'industria, esiste un'economia a livello mondiale che ruota attorno appunto al potere del porno. Torniamo agli Stati Uniti. L'ultima domanda per la dottoressa Maina riguardava un processo molto interessante, questa delocalizzazione della produzione, sentite. È in atto la delocalizzazione anche negli Stati Uniti. L'industria si sta spostando o sta minacciando di spostarsi, l'industria californiana, lei sa che il porno diciamo viene prodotto principalmente nella San Fernando Valley, no? A Los Angeles. Col fatto della Measure B, cioè di questa norma che impone l'uso obbligatorio dei preservativi, alcune case di produzione hanno aperto delle subsidiaries, insomma delle filiali a Las Vegas, dove invece, essendo che è pure molto vicina, sono solo appunto qualche ora di macchina, però dove pure questa legge non c'è. Quindi anche in questo caso non sono tanto, cioè sono condizioni di tipo, come dire, condizioni di possibilità di tipo industriale, legale, eccetera, che creano le delocalizzazioni principalmente. È tutto anche per questo Meglio di Nessun Luogo è Lontano. Vi ringrazio per essere stati all'ascolto. I ringraziamenti anche da parte della redazione: Antonio Talia, Eleonora Aragona, Silvia Malnati, Gianmarco Ferronato, che ha confezionato con noi anche questo Meglio di. Beh, l'ho già detto venerdì, vi saluto così, spegnendo il microfono, prendendo lo zaino e ricordandovi che Nessun Luogo è Lontano.